Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Dossier immigrazione. I residenti stranieri in regione sono oltre il 10% della popolazione. I dati illustrati al centro Balducci. Migranti ed export al centro del bilaterale Italia-Slovenia di Lubiana con il vice premier Traiani, che nel pomeriggio sarà a Gorizia. Electrolux, cresce la preoccupazione per il futuro di Porcia. Inutile fare terrorismo, la replica della regione. Addio al due volte sindaco di Monfalcone, Adriano Persi, che era stato primo cittadino dal 93 al 2001. A Trieste, maschere, giochi di Halloween, falsi profumi griffati sequestrati da polizia locale e fiamme gialle. Altro grande evento musicale annunciato per Go 2025 in France, il 9 luglio, il concerto di Sting a Villa Manin di Passariano. 12:31, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Continua la crescita dei cittadini stranieri residenti in Friuli, Venezia, Giulia, che raggiungono la percentuale in doppia cifra del 10,2% della popolazione. È uno dei dati che emergono dalla fotografia della nostra regione, scattata nel dossier statistico immigrazione del Centro Studi e Ricerche IDOS. Ce ne parla Paolo Attanasio, che si è occupato della redazione del capitolo dedicato al Friuli Venezia Giulia. Questo dossier, che ormai è giunto alla 34esima edizione perché esiste giusto dal 1990, con il suo capitolo regionale sul Friuli Venezia Giulia ci dice che finalmente anche la nostra regione è diventata grande dal punto di vista dell'immigrazione. Che cosa vuol dire? Che ha superato per la prima volta la soglia del 10% di residenti, perché i residenti stranieri sono aumentati in misura molto superiore rispetto ai residenti generali e quindi diciamo le residenze degli stranieri corrono più in fretta di quelle delle persone di nascita e cittadinanza italiana. Se noi guardiamo il diagramma che ci indica le regioni che hanno maggiore immigrazione dal punto di vista dell'incidenza, attenzione, percentuale, non cifre assolute, vediamo che da una parte ci sono tutte le regioni del centro-nord, tutte le regioni più produttive che hanno più lavoro da offrire e che sono anche le regioni più abbienti. Da quest'anno anche il Friuli Venezia Giulia entra a far parte di questo club. Dall'altra parte invece, con un paio di eccezioni, ci sono tutte le regioni da cui gli immigrati in un certo senso cercano di andare via perché non ci sono opportunità di lavoro, spesso neanche per la popolazione locale. Qui abbiamo una situazione di diffuso benessere economico, di scarsa disoccupazione e anzi, come in tutte le altre regioni del centro-nord Italia, un grande bisogno insoddisfatto di forza lavoro che dobbiamo necessariamente, ce lo dice anche l'INPS, coprire con l'accoglienza di lavoratori stranieri, perché altrimenti da qui a 30 anni noi non riusciremo più a pagare le nostre pensioni. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il ministro degli esteri Antonio Tajani questa mattina a Lubiana per la riunione del comitato di coordinamento dei ministri Italia-Slovenia. Al centro della missione i temi dei migranti e dell'export. Nella delegazione italiana anche il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Frattin, oltre ai viceministri e sottosegretari del Ministero delle Imprese del Made in Italy, dell'agricoltura e degli interni. A Lubiana, per il titolare della Farnesina, un incontro bilaterale con la sua omologa Tania Faionne, presiede la sessione plenaria del comitato. Nel pomeriggio Tajani sarà in visita a Gorizia alle 16:45 nella sala conferenze del Museo Santa Chiara di Corso Verdi. Nel corso di una conferenza stampa parlerà di temi di politica estera e nazionale, inclusa Go 2025. Alle 16 prima quindi visiterà la mostra dedicata a Ungaretti. Alle 17:40 l'incontro con amministratori e dirigenti di Forza Italia. Si è spento nella notte l'ex sindaco di Monfalcone, Adriano Persi, aveva 74 anni. Le sue condizioni di salute si erano aggravate nell'ultima settimana. È deceduto all'ospedale di Udine, dove era ricoverato. Con la lista del Partito Democratico della Sinistra, Persi era stato eletto nel 1991 primo cittadino della città dei Cantieri, dopo esserne stato vice sindaco. È stato il primo sindaco di Monfalcone eletto direttamente dai cittadini 4 anni dopo, nel 97, la riconferma sempre con la lista del Partito Democratico della Sinistra. Aveva guidato la giunta cittadina fino al 2001. Persi aveva militato nel Partito Comunista Italiano, di cui era stato dirigente. In seguito aveva aderito al PDS e ai DS, non aveva invece aderito al PD. Adriano Persi aveva lavorato come tecnico all'acquedotto di San Giovanni di Duino, molto attivo anche nel volontariato, era presidente della banda civica di Monfalcone. E ora in Consiglio regionale, dove nella seduta di oggi sono diversi temi all'ordine del giorno. La mattinata al Consiglio regionale è stata emotivamente impegnativa. I lavori sono iniziati con le celebrazioni della giornata dei corregionali all'estero, che ha portato in aula i rappresentanti delle 7 organizzazioni che da decenni contribuiscono in modo fattivo a mantenere vivo il legame tra la terra di origine degli emigrati e i paesi dove sono emigrati, come ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale Bordin. L'emigrazione nel secondo dopoguerra era una necessità, ha aggiunto, ma sono riusciti, nonostante le grandi difficoltà economiche di comunicazione, a mantenere e portare i nostri valori in quelle terre, a rendere plastiche le difficoltà e anche la solidarietà che si costruiva tra gli emigrati in Argentina. È stata la fiumana Anita Maria Marinkovic, da 72 anni a Buenos Aires, dove regge l'associazione Giuliani nel Mondo. Eravamo derisi perché poveri, italiani, e stare assieme è tutto ciò che avevamo, e ci aiutavamo tra emigrati di tutte le regioni d'Italia, ha detto in aula. Ha emozionato tutti quando ha ringraziato per l'opportunità di essere potuta tornare a Trieste dopo 13 anni, ha potuto riabbracciare la famiglia e le ceneri del figlio che riposano qui. Prima della consegna del sigillo del Consiglio regionale alla signora Marinkovic, l'assessore Roberti ha sottolineato anche l'importanza del ruolo delle associazioni dei corregionali all'estero per mantenere un legame non solo con le seconde e le terze generazioni, e in questo fondamentale anche il successo ventennale dei corsi Origini al MIB, ma anche il ruolo delle associazioni nel promuovere l'attrattività del Friuli Venezia Giulia, della sua qualità della vita, dei suoi servizi nei confronti dei nuovi emigrati, per opportunità per i quali Roberti, ma anche Bordin, auspicano che possano rientrare in regione. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Aumenta la preoccupazione dei sindacati per il futuro dello stabilimento Electrolux di Porcia, dopo le voci di un possibile trasferimento di alcune attività in Polonia, ribadita nel corso di un incontro ieri con la deputata del PD, Deborah Serracchiani. Inutile fare terrorismo, replica la regione, che promette di vigilare sull'evolversi della situazione. Un hub per la ricerca e sviluppo di Electrolux sta per aprire, o avrebbe già aperto, a Varsavia, in Polonia. L'azienda non l'ha ancora ufficializzato, ma i sindacati lo danno già per certo e lo considerano un altro campanello d'allarme che desta nuove preoccupazioni. È la stessa unità che a Porcia c'è già e lavora a livello mondiale, osserva il delegato RSU della FIOM CGL Zoccolan. Proprio i sindacati anni fa l'hanno fortemente voluta nel sito pordenonese a garanzia di eccellenza, spiega la delegata RSU della FIOM CISL Fanella. I sindacati considerano lo sdoppiamento un possibile segnale di una strategia di indebolimento in atto per gli stabilimenti italiani, tutte ipotesi da confermare, mentre a preoccupare sono soprattutto i numeri della produzione. A Porcia in progressivo calo, quest'anno, ricordano la RSU, cifra alla mano, lo stabilimento dovrebbe chiudere a circa 680.000 lavatrici prodotte contro le 707.000 previste e ben al di sotto dello standard storico di 750.000 pezzi. Nel 2025 si prevede un ulteriore calo a 620.000 lavatrici, mentre il 2026 è ancora un'incognita. I contratti di solidarietà dovrebbero partire tra dicembre e gennaio per oltre 750 dei 1.600 dipendenti di Porcia. Intanto a novembre i sindacati incontreranno l'azienda per approfondire il quadro. Alla deputata del PD Serracchiani, incontrata a Pordenone, hanno affidato le proprie preoccupazioni, con anche la richiesta di sollecitare la ripartenza del tavolo nazionale dell'elettrodomestico e di avere certezze di sviluppi futuri. Punto richiamato da Serracchiani in una nota nella quale scrive che è il governo che deve aprire un tavolo di settore, deve scendere in campo la regione e che, per quanto fondamentali, non si può andare avanti con gli ammortizzatori sociali. Fare terrorismo psicologico non serve a nessuno, tantomeno ai lavoratori dell'Electrolux, replica da New York, dove si trova in missione istituzionale l'assessore alle attività produttive Bini, che sul secondo hub in Polonia afferma di averne sentito voce, ma sottolinea che l'azienda ha sempre ribadito la strategicità di Porcia, nonostante la crisi europea del bianco sia sotto gli occhi di tutti. Bini assicura l'impegno a sollecitare il governo a continuare a tenere alta l'attenzione al tavolo permanente delle grandi crisi industriali, che, rammenta, è sempre rimasto attivo. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Un focolaio di influenza aviaria in un allevamento di tacchini della Bassa Friulana è stato riscontrato dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione, che ha disposto l'immediato isolamento del sito e ha avviato tutti i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. Per prima cosa, ha detto Manlio Palei, direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria, abbiamo svolto un'indagine epidemiologica per tracciare i flussi di ingresso dell'agente patogeno nell'allevamento e per bloccare le possibilità di uscita da esso. Il sito è completamente isolato e tutti gli addetti sono dotati di dispositivi di protezione per operare in totale sicurezza. La norma prevede l'abbattimento e lo smaltimento in sicurezza di tutti i capi dell'allevamento per evitare qualsiasi possibilità di diffusione del contagio. L'influenza aviaria è causata negli uccelli dal virus dell'influenza A e può presentarsi a bassa o alta patogenicità. Solitamente l'aviaria contagia gli uccelli selvatici, che permettono al virus di propagarsi attraverso le feci. Normalmente gli uccelli selvatici sono portatori sani, mentre il virus è molto contagioso e letale per gli animali di allevamento domestico come polli, anatre e tacchini. Ancora cronaca, maschere, giocattoli, costumi di Halloween, in prevalenza destinati a bambini privi delle minime informazioni sul contenuto e sulla sicurezza del prodotto, sono stati scoperti dal nucleo di polizia commerciale della polizia locale di Trieste nel corso di alcuni controlli. A darne notizia oggi l'assessore alla sicurezza Caterina De Gavardo. Gli articoli sono stati sequestrati in tre negozi in largo Barriera Vecchia, in zona stazione negozi, che avevano allestito i loro punti vendita con accessori e maschere. In molti casi dalle verifiche è emersa una difformità rispetto ai requisiti imposti dagli standard di sicurezza europei e nazionali. Oltre 460 i prodotti sequestrati per un valore di diverse migliaia di euro. I negozi sono stati anche segnalati alla Camera di Commercio della Venezia Giulia. Da marzo oggi sono quasi 3.400 gli articoli ritirati dal commercio in 56 sequestri amministrativi di prodotti alimentari e non alimentari per carenze sotto il profilo informativo e di sicurezza. Dei profumi contraffatti sono stati sequestrati al valico di Fernetti. A effettuare il sequestro il nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle di Trieste, che nei giorni scorsi hanno fermato una vettura a targa estera guidata da una donna di nazionalità romena, che ha da subito mostrato evidenti ansie e agitazione, insospettendo così i militari che hanno ispezionato il mezzo, trovando all'interno un trolley con confezioni di profumi, i quali marchi erano internazionali. Richiesta la documentazione di trasporto della merce per un totale di 70 confezioni, la donna ha fornito le fatture di acquisto, che riportavano però un prezzo notevolmente inferiore al normale. Evidenti anche alcune difformità nelle confezioni dei prodotti e altre carenze delle omologhe di commercializzazione. I profumi, dal valore sul mercato di circa 9.000 euro, sono stati sequestrati e sottoposti ad analisi per evidenziare eventuali sostanze dannose. La donna è stata denunciata. E ora la cronaca giudiziaria, con le udienze a Udine, le attese sentenze del processo per la morte di Lorenzo Parelli e quello che vede contrapposti Danieli e il leader dei comitati del coordinamento no acciaieria, Paolo De Toni. C'è attesa in tribunale a Udine per la lettura della sentenza per la morte sul lavoro di Lorenzo Parelli, studente del centro di formazione professionale dell'Istituto Bearzi, travolto da una trave di metallo il 21 gennaio 2022, all'ultimo giorno di stage in azienda. La convocazione delle parti è stata fissata per le 13 dalla GUP, giudice per l'udienza preliminare, Carlotta Silva. Dopo le indagini dei carabinieri, la prima udienza risale al 15 maggio scorso. La PM, Lucia Terzariol, ha chiesto 3 anni e 4 mesi di reclusione per Claudio Morandini, il dipendente che lavorava con Parelli, e 2 anni di reclusione per Emanuele De Ciglia, il tutor aziendale. Si vedrà se la giudice accoglierà o meno le richieste dell'accusa. Pietro Schneider, 73 anni, legale rappresentante della Burimec, l'azienda di Pavia di Udine, difeso da Stefano Buonocore, ha chiesto il patteggiamento. Non si è opposta alla PM. Oggi la giudice per l'udienza preliminare si pronuncerà accordando meno i 3 anni di reclusione e i 20.000 euro di sanzione pecuniaria per la Burimec. In caso venisse venisse accolto il patteggiamento, il legale chiederà al Tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova per Schneider, possibilità prevista per le pene fino a 4 anni. La Burimec di Lauzacco costruisce apparecchi ed impianti per la pesatura ed effettua lavorazioni meccaniche per l'industria siderurgica. Ricordiamo che i genitori di Lorenzo, Maria Elena Dentesano e Dino Parelli, non si sono costituiti parte civile in quanto sono già stati risarciti dall'azienda. Poco prima, sempre a Udine ma in sede civile, discussione e salvo sorprese sentenza sui 100.000 euro di danni richiesti a Paolo De Toni, leader dei comitati del coordinamento No Acciaieria, richiesta avanzata dai legali di Danieli e Gianpietro Benedetti qualche mese prima del suo decesso per alcuni post su Facebook considerati diffamatori, presidio degli attivisti anti-acciaieria davanti al tribunale. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Una notizia che ci è appena giunta in redazione: per quest'ultima udienza il giudice ha deciso di non leggere pubblicamente il dispositivo della sentenza, ma di depositarlo in cancelleria, così che sia reso noto tra 30 giorni. Proseguiamo con la situazione meteo. Il cielo è sereno sulla regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste, Udine e Gorizia 20,5 gradi, a Pordenone 19,5 decimi, a Forni di Sopra e Tolmezzo 17 gradi, sul Piancavallo 15,5 gradi, a Tarvisio 13 gradi, a Sappada 11,5 gradi, sul Monte Zoncolan 11 gradi, sul Monte Lussari 8,5 gradi, a Lignano 19 gradi, a Grado 18. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale: per questo pomeriggio cielo in genere sereno, per domani cielo sereno con temperature massime al di sopra della norma del periodo. Sulla zona montana, di notte al primo mattino sarà possibile qualche nube bassa o nebbia in alcune valli. Finché la medicina del territorio resta con pochi strumenti, pronto soccorso resteranno affollati di pazienti non gravi e non urgenti. Non c'è soluzione. Il punto sulla situazione con il responsabile dell'emergenza Asugi, Alberto Peratoner. È stato appena presentato a Roma il programma nazionale Esiti dall'Agenzia Nazionale per la Sanità Regionale. Delinea un quadro degli ospedali estremamente frastagliato in tutto lo stivale, anche a livello infraregionale all'interno della struttura, nella stragrande maggioranza delle quali, scrive Agenas, convivono aree di qualità alta o molto bassa con aree di qualità di livello basso o molto basso. Analizzati in totale 1.363 ospedali pubblici e privati. Le disparità permangono, ma non solo e non tanto fra nord e sud. Se infatti Calabria e Sicilia migliorano un po', il Friuli Venezia Giulia perde qualche colpo. In particolare sulla continuità assistenziale, quindi sulla medicina del territorio, i dati non migliorano, pur essendoci un grande bisogno di alleggerire i pronto soccorso che restano permanentemente sovraoccupati da ormai 5-6 anni senza grossi miglioramenti. Allora abbiamo chiesto al dottor Peratoner, responsabile dell'emergenza territoriale, qual è la situazione oggi della guardia medica, a cui puntano il dito spesso gli addetti ai lavori quando si parla di inefficienze della medicina territoriale. Ebbene, le chiamate al numero 800 614 302, per Asugi, un numero attivo 24 ore su 24, che è poi il numero che dalle 20 alle 8 diventa il numero di guardia medica, sono 500 al giorno. Ogni sabato e domenica raddoppiano. Il problema della guardia medica è che non ha degli strumenti di lavoro al di là dello stetoscopio e di un computer. Non possono scrivere ricette, non possono prescrivere esami specialistici, i medici della continuità assistenziale, e quindi hanno le mani legate. Normalmente una persona non accetterà mai di andare ad un'assistenza di prestazione inferiore se ha a disposizione un pronto soccorso con strumenti efficaci per delle diagnosi, per una risposta terapeutica immediata. È vero che ci sono molte ore di attesa per i codici bianchi e verdi, afferma Peratoner, ma è altrettanto vero che è meglio aspettare qualche ora secondo i pazienti che non magari prendere appuntamenti per un mese o 2 mesi dopo. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi atto finale presentazione dei risultati del progetto biennale finanziato dalla Commissione Europea di contrasto e prevenzione della violenza di genere Change, che ha coinvolto scuole e famiglie e attivato sportelli per uomini maltrattamenti tra Friuli e Veneto. Oltre 2.300 studenti coinvolti in percorsi di sensibilizzazione tra scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, 200 insegnanti e 450 famiglie, 300 operatori formati, 4 sportelli aperti o potenziati che hanno sinora colto 60 uomini autori di violenza. Sono i numeri del progetto biennale Change che ha operato tra Friuli Venezia Giulia e Veneto nelle città di Pordenone, Gorizia, Treviso e Conegliano, guidato dalla cooperativa sociale Itaca e finanziato dalla Commissione Europea. Oggi alla Biblioteca Civica del Comune di Pordenone la presentazione dei risultati. Chiara Grando, coordinatrice del progetto. Un pensiero che tra appunto operatori abbiamo fatto in questi 2 anni di lavoro è che è necessario lavorare sempre di più con il target più basso e quindi sarebbe bello già partire dalle scuole d'infanzia a lavorare da una parte con i bambini, dall'altra anche appunto con i genitori, perché veri messaggi passano se c'è poi l'adulto di riferimento che li porta avanti nei valori di ogni giorno. Per il lavoro con gli uomini maltrattanti sono stati potenziati in regione lo sportello di Pordenone e attivato quello di Gorizia, ancora Grando. Quello che ha fatto la differenza nello stare in un progetto così complesso con 13 partner è il fatto di aver dato visibilità agli sportelli affinché non soltanto l'uomo che viene inviato dal tribunale possa accedere allo sportello, ma in una logica di prevenzione attraverso i servizi specialistici piuttosto che i servizi sociali territoriali e la comunità stessa è possibile inviare l'uomo allo sportello, e questa è la grande ricchezza che ci permette naturalmente di cambiare e di produrre poi dei cambiamenti rispetto a chi ha agito violenza. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Proclamati i vincitori dell'edizione numero 21 del premio Lucchetta, l'evento giornalistico dedicato a servizi e inchieste incentrati su chi è più vulnerabile. Il premio è dedicato alla troupe Rai trucidata da una granata a Mostar nel 1994. Mentre realizzava un servizio sui bambini, oltre a Lucchetta, Alessandro Sascia Ota e Dario D'Angelo. La manifestazione a Trieste dal 15 al 17 novembre al Teatro Miela, in programma il primo appuntamento proprio venerdì 15 per l'intervento di apertura di Daniela Schifani Corfini Lucchetta, presidente della Fondazione, a seguire la tavola rotonda Gaza, dove muore la nostra umanità. La 21esima edizione premierà nella sezione TV News Raffaella Cosentino, mentre Annalisa Camilli si è distinta nella sezione Rotta Balcanica. Per la sezione Stampa Italiana verranno premiate Alice Facchini e Iris Biasio. Francesca Mannocchi è invece la vincitrice della sezione Reportage, mentre per la sezione Radiofonia la regia ha decretato vincitrice Azzurra Melingolo Scarfoglio. Gabriella Jošvák si è aggiudicata il premio della sezione stampa internazionale. Infine il vincitore della sezione fotografie è lo scatto La Russia colpisce i civili ucraini, mentre il premio speciale della Fondazione Lucchetta verrà conferito al collettivo Più 972 Magazine. Si aggiunge un altro grande evento musicale in regione al programma di quelli legati alla Capitale Europea della Cultura 2025, con una delle date italiane del tour mondiale di Sting, che si esibirà il prossimo 9 luglio a Villa Manin di Passariano. E l'associazione culturale multilinguistica Kulturhaus Gerz organizza alle 18 un incontro dal titolo Scrittrici nella bufera, la parola alle donne, dedicato alla scrittura femminile durante la prima guerra mondiale. Abbiamo parlato di questo appuntamento con l'esperta di siti della Grande Guerra, Elisa De Zan. Questo incontro è un incontro che vuole raccontare l'esperienza di vita e di scrittore di una serie di donne pioniere dell'informazione che hanno descritto e scritto relativamente alla prima guerra mondiale, che è stata un terreno narrativo prevalentemente maschile. Eppure queste donne hanno lasciato una testimonianza molto interessante, sia per quanto narrano, sia per la qualità della loro narrazione. Furono scrittrici, furono inviate di guerra, ci fu una fotografa di guerra che in mezzo a molte avversità e a molte difficoltà oggettive riuscirono a veicolare, a trasmettere, a comunicare la loro guerra. molto diverse fra loro per estrazione, provenienza geografica, formazione, formano un affresco davvero molto variegato e le loro biografie sono estremamente affascinanti. Sono donne moderne, donne fortemente emancipate fin da allora. Come è il loro punto di vista sulla guerra? Che cosa raccontano? Alcune di loro, diciamo, hanno un punto di vista di chi vuole inserire la guerra in delle opere che possono essere dei romanzi, quindi scrivono dei romanzi storici. Molte altre invece sono delle giornaliste. In alcuni casi le loro narrazioni risentono del punto di vista femminile, in molti casi no, e la cronaca della guerra non conosce necessariamente varietà di genere. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Rettifichiamo l'orario di un appuntamento di cui abbiamo dato notizia nel giornale radio di stamane, nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni della Società Alpina Friulana. Stefano Mancuso, scienziato, scrittore, divulgatore, esperto di neurobiologia vegetale e docente all'Università di Firenze, guiderà il pubblico del Palamostre di Udine alla scoperta di un nuovo modo di guardare al mondo vegetale, rivelando le insospettabili facoltà delle piante. L'appuntamento è alle 18:30. L'ingresso è libero, ma serve prenotare. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Riccardo Stoic e Andrea Fontanot. In segreteria ha collaborato Cristina Polselli. Da Maria Spezia e Rita Micoli, grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.